Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre, come sempre saluto con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto agli amici in ascolto. Allora Gianluca, le buone notizie sono arrivate con l'inizio della settimana perché pare che insomma avremo un po' di carte in meno per amministrare le nostre automobili. Sì, infatti Francesco, finalmente possiamo dare anche qualche volta qualche buona notizia. Ti ricordi appunto che abbiamo un attimo parlato dei bolli ancora qualche giorno fa e per il fatto che stanno arrivando richieste di pagamenti di bolli dalla regione Veneto a tanti automobilisti, bolli 2012. Abbiamo detto che quella è tuttora per noi un'imposta odiosa, perché va appunto a colpire un bene come la vettura, insomma utilizzatissimo bene. E adesso però abbiamo una buona notizia che speriamo venga confermata, ma guarda, mi sento di essere fiducioso, e riguarda finalmente, diciamo, questa unificazione anche in Italia tra il libretto di circolazione e il certificato di proprietà dell'auto. E infatti Francesco, noi adesso magari non ci ragioniamo tanto, anzi sicuramente che ci ragiona tanto sulle spese che dobbiamo affrontare avendo un'automobile. Ecco, diciamo, abbiamo il bollo, abbiamo l'assicurazione, ovviamente la benzina, e ovviamente abbiamo questa doppia incombenza derivante dal fatto che noi abbiamo due realtà come l'ACI, anzi il pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI, e la motorizzazione, che per molti versi compiono anche delle cose molto simili. E adesso per fortuna nella riforma della pubblica amministrazione, diciamo molto spinta dal viceministro Riccardo Nencini, c'è questa novità che noi speriamo di accogliere felicemente, cioè l'unificazione del libretto di circolazione e del certificato di proprietà dell'auto. Noi attualmente sappiamo benissimo che abbiamo appunto una carta di circolazione, come viene chiamata un libretto di circolazione, che è emesso dalla motorizzazione, e questo è l'unico documento valido per la circolazione dei veicoli in tutti i paesi. Infatti bisogna averlo dietro. E quello bisogna assolutamente averlo dietro. Però abbiamo appunto un altro documento che ci consta sempre, che è il certificato di proprietà, viene emesso dal PRA, che è gestito dall'ACI, e solo attraverso questa iscrizione, quindi solo attraverso questo certificato di proprietà, noi diventiamo realmente intestatari dell'auto. Succede che adesso fortunatamente questi due documenti dovrebbero essere unificati, usiamo il condizionale perché la riforma non è ancora andata in porto, ma abbiamo molta fiducia, e ciò significa soprattutto una cosa, Francesco, cioè un risparmio di 39 euro, che ovviamente ci fa molto piacere. Adesso diciamo che fino ad oggi, appunto, quando con un'auto nuova tra immatricolazione e certificato andavamo a spendere all'incirca un 100 euro, diciamo che con questa unificazione andremo a pagare probabilmente una sessantina di euro, esattamente 61 euro, quindi con un risparmio di 39 euro. Però diciamolo tranquillamente Francesco, al di là del risparmio c'è anche una questione appunto di iter burocratico, per il fatto che comunque per ottenere le due cose insomma bisognava comunque muoversi in varie strutture, appunto dall'ACI alla motorizzazione. Adesso fortunatamente, ripeto, usiamo sempre il condizionale, se andrà in porto la riforma avremo un unico documento, ci faciliterà la vita, risparmieremo 39 euro, ma credo che soprattutto si faccia una coda in meno, forse coda in meno anche. E questa è una questione di civiltà, perché oggettivamente, e l'abbiamo sottolineato un'altra volta con il bollo, sull'automobile come sulla casa insistono troppi costi, insistono perché sappiamo benissimo che sono due beni sui quali è più semplice poter appunto applicare delle imposte, delle tasse, però sono veramente molto spesso dei costi in più e dei costi odiosi, che vanno appunto a colpire l'automobilista che è già tartassato in altre forme, appunto col bollo, con l'assicurazione e con la benzina. Quindi noi accogliamo e con grande soddisfazione questa novità, sperando ovviamente che vada in porto, Francesco, perché stiamo già cantando vittoria, speriamo di non dover ritirare questa nostra soddisfazione. Quindi insomma diciamo che questo è sicuramente un passo in avanti per arrivare a semplificarci la vita, che al di là dei costi, perché comunque 39 euro in meno fanno sempre comodo, però al di là dei costi noi abbiamo bisogno che questo nostro stato ci semplifichi la vita, ci semplifichi la nostra esistenza. Io per esperienza diretta, devo dire, ma insomma penso tutti noi, quando ho dovuto fare un cambio di proprietà, e veramente abbiamo girato assieme alla mia famiglia, abbiamo dovuto girare tantissimi uffici, abbiamo perso oggettivamente tutti una mezza giornata, una giornata intera. Io credo che veramente un governo, uno Stato che voglia facilitare le famiglie, i consumatori, gli utenti, debba appunto andare nella direzione di semplificare questi iter burocratici che veramente inchiodano l'Italia, sicuramente. Sì, ma perdiamo tantissimo tempo, tempo che potremmo sfruttare in magari passeggiate che ci liberano un po' la mente e lo spirito. Che ci fa... Magari, Francesco, magari pretesto che siamo anche più tempo per noi, anche per fare sport, per dedicarlo a noi stessi, e noi vediamo che ogni tanto appunto queste sono perdite di tempo che si possono sicuramente eliminare, appunto per dedicare un po' più di tempo a noi stessi. Ecco, non voglio farti perdere ancora tempo, allora grazie perché siamo stati precisi. In ogni caso ricordo che l'Adico è sempre pronta per eventuali problematiche, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it per chiedere lumi all'Adico, che ringrazio e saluto nella figura di Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.